Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. È venerdì, caro Oscar! Eccoci qua, caro Alessandro, cari ascoltatori. Io lo dico sempre con questa enfasi perché per me è l'ultimo giorno, tu lavori anche domani. Oggi pomeriggio, domani. È venerdì. Per te, tu dici, vabbè, venerdì. No, domani è sabato. Venerdì 11 dicembre, oggi San Damaso, ma soprattutto San Sabino, che mi è caro perché è il santo a cui ci si rivolge contro le esondazioni dei fiumi, ma in particolare del Po. Ed è molto venerato, sì, San Sabino. C'è anche, infatti, con gli anni è diventato un santo a cui ci si rivolge anche per altre cose, perché c'è un detto a Piacenza, no? Che dice: San Sabino, ti preghiamo, troppe tasse noi anneghiamo. Ah, esatto. Ma solo a Piacenza, perché a parte Piacenza le tasse vanno bene. No, ma... perché lui, il culto di San Sabino, perché era di Piacenza, era, e quindi certo, è molto venerato. Ma certo, credo che però valga per tutta Italia, per la parte tasse. Il santo, quando c'è troppa roba che ti viene addosso, allora San Sabino. Sì. Allora 800 24 00 24, io, caro Oscar, ho un timore. Adesso tu ci spiegherai, tra Banca Italia, tra la Consob, tra l'Unione Europea, chi ha ragione, ma io il timore, e io sono stato il primo a criticare chi ha firmato magari inopinatamente, se in maniera imprudente ha perso dei soldi, ma ho il timore che in questo dibattito che è diventato politico, adesso a dire colpa mia, colpa di loro, colpa nostra, come poi ci vanno di mezzo quelli che hanno perso soldi, cioè si perda il focus sul dramma umanitario, questo lo dico io, non lo dice Padoan, delle persone che magari hanno davvero perso tutto. No? Beh, è un rischio molto elevato, perché secondo me la forza degli interessi che nascondono le proprie eventuali responsabilità, cioè la Banca d'Italia, d'accordo con tutti i vertici bancari, e ce n'è di imprenditori, editori di mezzo e così via, come si vede dai giornali, analizziamo un po' come oggi prendono posizione i giornali, è un peso molto rilevante. Quindi il rischio, secondo me, sono d'accordo con te, che alla fine scarica barile, oppure il dibattito diventi: ha sbagliato l'Unione Europea critica Banca Italia dice ma noi non è vero, è colpa di Bruxelles, poi sì, è la Consob che c'entra, non siamo noi, e poi alla fine si perde il centro della questione, no? Alla fine sarà le braccia allargate, e ognuno dirà colpa sua, esatto. Ci sono intanto delle persone che hanno perso dei soldi, è un dibattito, ci sono persone che rischiano di perderne altri, perché il sistema bancario è ben lungi dall'aver, per così dire, pulito le sue stalle. Appunto, anche perché da gennaio sarà peggio, se tanto mi dà tanto, cioè sarà con peggio. il famoso bail-in, che non è l'esclamazione genovese, ma 9 banche commissariate, sono piccole, però sono 9, e ce ne sono alcune che, insomma, diciamo, continuano a traballare. MPS, ed è tutto risolto il problema, c'ha 6 miliardi di crediti deteriorati in pancia, eccetera, e nessuno se lo compra, come ovvio, in queste condizioni. Però abbiamo scoperto che c'era anche il fratello del ministro. Esatto. Oggi Repubblica dice che certamente a Banca Etruria non restituiranno forse i 185 milioni che si sono autoconcessi, 18 a ex amministratori con 198 posizioni di fido finite in sofferenza, e tutto questo settore era curato da Emanuele Boschi, il fratello di Maria, il responsabile analisi processi di costo, testualmente, in 33 anni. Però Boschi era parlato del padre, perché era la figura più nota, vicepresidente per 8 mesi di Banca Etruria. Senti cosa ha detto alla presentazione del libro di Bruno Vespa sul padre, Maria Elena Boschi. Sicuramente il nostro è un governo che non ha fatto favoritismi. È ovvio che io conosco mio padre, so chi è, so che è una persona per bene. È finito un po' all'attenzione costante delle cronache, non tanto per quello che fa lui, ma perché è mio padre. Cioè è finita l'attenzione delle cronache, ecco, non questo, tanto questo perché è sbagliato. Fa, ma perché è mio padre, no, invece no, è sbagliato, no. Perché l'amministratore di una banca, un vicepresidente, un membro di CDA che si autoattribuisce, come è avvenuto in Etruria, ma come era la regola in queste, in piccole banche popolari, nelle BCC eccetera eccetera, questo è uno scandalo, un male del sistema bancario italiano, ed è ovvio che bisogna sempre di più che questi finiscano sui giornali, che sia il papà della Boschi una circostanza per così dire aggiuntiva. Anzi posso dire ma che ci sarebbe finito comunque. Non posso dire che finora è il contrario, cioè mi sarei aspettato, bravo, molto di d'accordo, più dire sono il papà d'accordo del ministro Boschi, cosa che non è di per sé una colpa, però invece è stata tenuta molto bassa sui giornali. Esatto, questa diciamo che c'è una cintura parentale di salvaguardia nei confronti di questo governo da parte di molti media, ma voglio dire non, c'è stato in altri tempi verso altri governi. È un riflesso condizionato un po' di questa stampa italiana, un po' poco abituata nella media a pensare che bisogna essere davvero indipendenti, secondo me, mi permetto di dire. Comunque io dico qua che sui giornali oggi quello che tu, Oscar, da un po' di tempo, ma soprattutto in questi giorni dicevi, e cioè l'Unione Europea forse ci dice che non dovremmo dare queste obbligazioni subordinate a semplici correntisti, ma a persone, retail, cioè, ma persone che se ne intendono, investitori istituzionali. È quello che l'Unione Europea alla proprio scoppiato, imputa, no? Imputa all'Italia. E io trovo che, per esempio, l'intervista che c'è oggi dell'escapo della vigilanza, oggi direttore generale di Banca Italia, Salvatore Rossi, che è una persona per benissimo, conosco anch'io, al Corriere della Sera, però sia un po' imbarazzante, perché Banca d'Italia non può dire avremmo voluto, ma noi non possiamo lui imporre. Lui dice già Ignazio Visco da tempo ha detto dobbiamo vietare, bisognerebbe vietare, dobbiamo vietare, bisognerebbe vietatelo. Vietare. Allora vieta, non dobbiamo, chiama bisognerebbe. In causa chiama in causa una ultra autorità. Vedi che siamo appunto Consob. Al gioco del allora, al io, gioco del come me lo aspettavo, ovviamente. Vi leggo, caro ascoltatore, due brevissime cose, però qui si tratta di documenti formali. Il primo è della Consob. Ed è un questionario rivolto alle banche, a tutti gli intermediari finanziari, a due anni questo documento da cui sto leggendo, che dice come comportarsi sui diversi titoli, e c'è una, a un certo punto dice le obbligazioni subordinate, proprio quelle di cui si parla, sono da considerarsi strumenti complessi anche se non incorporano particolari strutture, e quindi al loro piazzamento vanno seguite procedure di particolare complessa, rigorosa accertamento rispetto al portafoglio di rischio del cliente? Domanda mi pare chiara. E la risposta? Risposta. In linea con le indicazioni fornite dall'opinione MiFID, che è la norma vigente, gli operatori devono prestare la massima attenzione alle fasi di distribuzione delle obbligazioni subordinate nei confronti della clientela al dettaglio. Sono considerate strumenti complessi. Mi pare inequivoco cosa dice la Consob alle banche. Che l'operatore deve informare per filo e per segno il... No, però non dice che è vietato darle ai correntisti. Bisogna informare. Non potete dare ai correntisti senza che vi occupiate di capire quanti soldi ha messo dove, perché questo c'è scritto. Allora, dice l'ABI invece, altra citazione, questa è del dicembre 2013. Allora, nei confronti del bail-in si possono attivare altre problematiche. Obblighi di informativa in base all'offerta. L'applicabilità del bail-in deve essere menzionato nel prospetto di offerta al pubblico delle azioni subordinate. Ma questo implicherebbe un aumento del costo del funding delle banche. L'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, dice alle banche italiane: ragazzi, noi dovremmo farlo. Ma ci costa? Cacchio, questo significa pagare di più la raccolta. Non lo fate! Questi sono atti ufficiali che vi sto leggendo. Insomma, il mio timore in una vicenda che è molto molto complessa, appunto, è che si perda sempre il centro della questione. Comunque, l'Europa non ci critica solo su questo, visto che ci ha anche criticato e aperto una procedura di infrazione dell'Italia sugli immigrati. Cioè, in pratica dice che noi, insieme a Grecia e Croazia, sono arrivati 55.000 immigrati, ma abbiamo preso le impronte digitali solo di 27.000, il che mi inquieta anche un po'. Dove sono spariti? Dove siano spariti gli altri? Ma non è possibile che noi, dopo tutto questo tempo, siamo ancora che ne identifichiamo due su tre spariscono. Due su tre spariscono. Alfano, ma che dove sei? Che dici tu? Non lo so. Evidentemente è no, sappiamo che molti immigrati cercano di sfuggire al controllo delle impronte. Ho capito. Perché se uno prende le impronte, poi deve rimanere nel paese dove sono state prese le impronte finché non è chiusa la procedura. Noi lo sappiamo oramai da due anni che l'Europa dice voi chiudete gli occhi apposta perché non ve li volete tenere, ce li mandate. Però se le cifre sono queste, capisci che l'accusa continua a essere vera. È impressionante anche perché l'immigrato fa il gioco dell'immigrato, ma un'autorità, uno Stato dovrebbe invece fare il ruolo dello Stato. E poi noi che pensiamo di salvarci la coscienza dicendo che vietiamo il niqab e il burka negli ospedali? Ma cioè, che mi sembra, Lombardia, stiamo parlando della Lombardia. Sì, ma adesso, allora, un abbraccio al governatore della Lombardia, Roberto Maroni, milanista come me, e quindi, però, ma quante saranno le persone che saranno interessate praticamente da questa vicenda? Cioè io alcune volte li vedo a Milano, alcune donne proprio ogni tanto, una ogni 10 giorni che va in giro velata, no, si vede. Nel centro, nelle cose della moda ce ne sono parecchie a girare, perché sono le parenti degli emiri che vengono a comprare, le vedi tutte in fila, tutte nere. Vabbè, però insomma, che entrano in un ospedale. Ecco, un ospedale, no, perché Maroni ha detto la sanità è mia, è l'unico posto dove posso deciderlo. No, beh, anche uffici pubblici, non lo so, mi sembra, per carità, ma tutto si può normare, tutto si può regolamentare, è giusto, però sarà una norma che riguarda 10 persone. Aspetta, no? Secondo il testo unico di pubblica sicurezza, il testo è inequivoco, quello vigente in Italia dice che nei luoghi pubblici, ma cioè infatti, per strada, non si può andare travisati. Ed è giusto così. Peccato però, no, la cosa ridicola è che questa norma dipende a seconda dell'interpretazione della procura in cui sta in Italia. Per esempio, a Venezia hanno fatto l'ordinanza dovunque non si può andare travisati col burka. Perché? Perché la procura generale Nordio ha detto per noi vale quella legge. Per altre, come a Milano invece, con sentenze passate in giudicato, se è espressione di una cosa religiosa vale. Che cavolo d'Italia è un posto ma dove... Ma è chiaro, ma d'altronde anche lo stesso Maroni dice la legge c'è, noi non abbiamo fatto una legge nuova, esatto. Proprio perché la legge c'è, abbiamo fatto un regolamento, anche qui c'è una legge in Italia, ma bisogna fare sono un regolamento interpretativo della legge, in quindi sono già due. Tentiamo di non farne sparire 2 su 3, ecco, perché questo mi sembra il problema più rilevante, caro Alfano. Esatto, le impronte digitali. Tra l'altro, a proposito di 2 su 3, il giornale racconta che 2 espulsi su 3 rimangono in Italia. Esattamente. Cioè, quando ci sono le espulsioni, leggete espulso, ma in realtà 2 su 3 rimangono in Italia, pur avendo un provvedimento di espulsione. Percentuali di fronte alle quali veramente. Non so, poi capisco. No, non lo capisco, però un po' mi spiego, perché poi l'Europa ci guardi, no, su questi argomenti dicendo: sì, ragazzi, voi fate un po' sempre i furbetti. Beh, soprattutto poi, ripeto, c'è una questione di sicurezza che in questi ultimi mesi mi pare dovrebbe essersi aggravata. Vedo Alfano che tutti i giorni dice che si fa tutto il possibile. Se questi sono i numeri, c'è di che preoccuparsi in una maniera veramente terribile per quello che mi riguarda. E invece ti devo fare una domanda. Ma sulla prescrizione di Penati a Milano come la pensi? Ma sulla prescrizione di Penati io non ho seguito la vicenda nei dettagli. Certo, il dato di fatto è che dopo 4 anni e mezzo di inchiesta il fatto non sussiste. Questo è il dato accertato da parte della procura. È vero che una parte è stata stralciata, è finita in prescrizione, Penati dice questo non c'entra, io la verità è che non ho corrotto nessuno. Il dato di fatto, a 4 anni e mezzo di inchiesta, il sistema Sesto finisce nel nulla. Finisce nel nulla. Io devo dire, avendo seguito un po' la vicenda, perché erano cose economiche, i concessionari autostradali, il gruppo Sabri, eccetera, eccetera. Insomma, la verità è che sono finiti stralciati dei filoni che erano i più pesanti dal punto di vista dei rischi delle pene in caso di condanna. Quindi io ci ho visto una notevole capacità tra quello e la tra gli stralci e le prescrizioni, una notevole capacità di autodifesa. Devo fare i complimenti a Penati perché si è organizzato o bene al suo collegio difensivo. Io conosco abbastanza Penati per sapere che non era proprio uno che faceva decidere gli avvocati, cioè è una persona quadrata e ne esce da vincitore, ma credo con altri beh, non lo so se sarebbe andata a finire così. È stato abile a difendersi. Sì. Allora, sentiamo qualche ascoltatore. Roberto da Treviso. Buongiorno Roberto. Pronto, buongiorno. Buongiorno Giannino, buongiorno Milan. Eccoci. Volevo intervenire sulla faccenda dell'acquisto azioni, obbligazioni subordinate delle banche. Accanto all'acquisto di azioni o di obbligazioni subordinate o meno che fossero, c'era a mio avviso una cosa ben più grave, mi riferisco in particolare a Popolare di Vicenza in parte e specialmente a Veneto Banca, il fatto che c'era una costrizione vera e propria di acquistare azioni di queste banche, altrimenti non ti davano i soldi. Guarda, c'è cascata anche Deborah Serracchiani, caro ascoltatore. Anche Deborah Serracchiani ha detto: per fare il mutuo ho dovuto fare delle obbligazioni e abbiamo perso 18.000 euro. Caro Roberto, lei ci crede? No, ovviamente lei no. Ci crede a Banca d'Italia che dice: mica possiamo mettere un ispettore in ogni banca? Testuali parole oggi di Salvatore Rossi nella sua intervista. Io mi limito a dire quello che ho sentito. Ecco. No, ma purtroppo lo abbiamo acquisito come dati di fatto. Io le posso garantire che a parlare di queste cose per anni in giro per l'Italia si veniva trattati come dei cani in chiesa, cioè si veniva messi alla porta, perché si diceva che chi lo sollevava questi problemi era un provocatore. Guardi, io ho sentito molti dei clienti che abbiamo noi, io lavoro per una struttura. Pronto? Sì, la sentiamo, Roberto. Lavoro per una struttura che affianca le aziende per ottenere fidi in banca, li affianca con la concessione di garanzie, che dicevano questo. Io ho visto tanti bilanci dove c'erano titoli, ma che titoli? Alice, Veneto Banca, sono azioni Veneto Banca, o acquistavo il 10-15% del fido oppure non mi concedevano i fidi, anche se avevo il rating. Ma è chiaro, ma questa è testimonianza diretta. Roberto, la ringraziamo, diamo gli Oscar, che poi diamo dopo gli Oscar, diamo gli al Oscar. Momento beh. And the Oscar goes to... Senti questa, caro Oscar. Il Corriere della Sera racconta del sindaco di Grugliasco, in provincia di Torino, del PD. Sì. Sindaco Monta, che non ha pagato la tassa sui rifiuti. In realtà adesso l'ha pagata ed è stata una svista. È stato un errore, è stata una dimenticanza. Vabbè, dai, il mio Oscar va a lui, perché poi alla fine ha saldato il debito. E tu non ci credi alla svista, ovviamente. No, per carità. Vabbè, non l'ho comunque mai pensato. Comunque si è messo in regola. Io il mio Oscar lo do invece a Sabino Cassese oggi sul Corriere, perché è unico tra i grandi giornali, e soprattutto lui è unico tra i grandi giuristi italiani, stanga, come è giusta, la tutela, anzi l'autotutela corporativa che il Consiglio di Stato sta dando a questi grandi magistrati italiani, che per non ottemperare alla legge dell'andata in pensione si fanno scudo del Consiglio di Stato, che isola l'applicazione di una norma. Un classico esempio di come i magistrati si autotutelano e sono Repubblica a parte. Chapeau all'ex giudice costituzionale Sabino Cassese, che scrive su questo delle parole che tutti dovrebbero assumere come linea di riferimento, invece di criticare gli altri poteri dello Stato e poi fare a casa propria quello che cazzo vogliono loro, nel loro interesse, esattamente come chi amministrava le banche. Io considero una classica espressione dell'Italia che si fa i cacchi propri fuori dai controlli. Si è arrabbiato. Ma sì, perché dai giudici, dai magistrati è ancora più grave. Ci piace così, arrabbiato. Allora, tra poco, noi parliamo invece di vitalizi degli ex parlamentari, perché tra le tante critiche, eccetera, ora ci sono dei progetti di legge, proposte di legge per cercare di ricalcolarli. Speremo. Col sistema contributivo, speriamo ce la faranno, non lo so. Avremo Matteo Richetti del PD tra poco con noi. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Allora, vedi, caro Oscar, che Beppe ci scrive: dal 91 faccio il volontario Croce Rossa, in 24 anni non ho mai visto una donna con volto coperto. E poi Daniele da Calolzio dice: noi siamo tutti con Maroni! Vabbè, ci saluta. Lo ci da saluta. Noi? Sì. No, credevo dicesse... Forse più a me. Forse no, più a ma me no, secondo me dice: noi siamo tutti. No, l'avevo letto male. No, l'avevo dice letto... a noi proprio. Vedi che la vedono in maniera diversa. Allora, qual è il privilegio considerato più insopportabile da tutti gli italiani quando si fanno queste trasmissioni? I vitalizi dei parlamentari. Noi non è che siamo contro. Io personalmente, io non sono contro l'idea che se uno vive di politica per 30 anni poi ha diritto a una pensione. Parte che dovrebbe essere quella e basta, non cumulare con altre pensioni, per esempio. C'è un riconoscimento, solo che intanto la sproporzione di quello che uno guadagna rispetto a quanto ha lavorato e la cumulabilità, insomma, tutte queste cose lo rendono una vergogna. Rispetto a quanto ha versato, e certo. Come lo maturavano, esatto, fulmineamente, come la caduta di una foglia. Bastava un giorno in Parlamento e maturavi 5 anni di legislatura. Adesso non è più così, fortunatamente. Però c'è qualcuno, ci sono varie proposte di legge, e noi salutiamo colui che ne porta avanti una. Matteo Richetti del Partito Democratico. Buongiorno onorevole Richetti. Eccoci. Buongiorno, ben trovato Milan. Un saluto Oscar Giannino. Eccoci. Insomma, l'obiettivo è quello di volere, se abbiamo capito bene, ricalcolare parte, alcuni vitalizi, ci spieghi quali, col metodo contributivo, per far risparmiare un po' di soldi allo Stato, è così? Ma sì, come stava dicendo lei, per chi fa il parlamentare oggi è già, vige già il sistema contributivo. Tra l'altro, secondo me, con qualche elemento di ingiustizia penalizzante. Cioè, se uno non fa 5 anni di legislatura, i suoi contributi sono tutti buttati via. Che non si capisce in quale altro lavoro questa regola trovi riscontro. Mentre stiamo ancora pagando tutti i mesi quelli famosi che hanno fatto un giorno, una settimana, un mese, 6 mesi di Parlamento, e li stiamo pagando con una sproporzione evidente, insomma, no? Con una contribuzione quasi nulla e un assegno invece importante che arriva anche fino a 2-3 mila euro al mese. Quindi lei cosa propone? Io propongo di istituire un fondo presso l'INPS e quindi da lì in avanti l'assegno previdenziale al parlamentare glielo dà l'INPS, dove l'INPS ricalcola sulla base dei contributi versati con lo stesso meccanismo di rivalutazione che prevede la Fornero, con gli stessi indici Fornero e con la stessa logica quota lavoratore e quota datore di lavoro, l'assegno previdenziale al deputato. È evidente, Milan, che quando uno ha fatto un mese di Parlamento il gioco è molto breve, che i contributi... Però io mi chiedo anche, una persona che ha fatto un giorno un mese di Parlamento negli altri 40 anni della sua vita avrà fatto qualcosa, no? E quindi spera. È evidente che nel 99% dei casi ci troviamo di fronte al cumulo. Se poi questa persona ha fatto un giro in regione, uno a Bruxelles, uno in Parlamento e c'ha pure un lavoro, stiamo parlando di persone che prendono 4 pensioni. E perché io non voglio affrontarla dal punto di vista del divieto di cumulo? Perché è profondamente ingiusto. Se una persona ha fatto 10 anni il consigliere regionale e 10 anni il parlamentare, io non gli dico te ne scegli una, perché giuridicamente questa persona... Però che siano proporzionate, siano proporzionate a quello che ha versato. Danno vita ad un unico fondo dove confluiscono i suoi contributi e dove parte un assegno pensionistico per i contributi, diciamo, che ha versato. E risolviamo alla radice anche il problema del cumulo. No, se io l'ho capita bene, Oscar, invece di avere, se uno ha 3 pensioni, consigliere regionale, Bruxelles, eccetera, avrà maturato tale per cui avrà 300 di qui, 600 di là, 700 di qui e arriverà ad avere una pensione come aver fatto un solo lavoro invece di avere 5.000, 4.000 e 3.000. Però questa obiezione, siccome quando si fa la riunificazione in Italia per i lavoratori comuni, per i poveracci come noi, la riunificazione, non a caso abbiamo scoperto, unendo insieme gli enti che gestivano le pensioni diverse, abbiamo scoperto, ed è una tragedia per molti italiani, per alcuni milioni di italiani, che la riunificazione diventa onerosa. Perché? Perché per noi poveracci, quando si fa la riunificazione, quindi pezzi, per chi è stato dipendente e indipendente, autonomo, metterli insieme con un'unica regola significa spesso scoprire che bisogna pagare un mucchio di roba in più. Per i politici, siccome il trattamento europeo, se sta al Parlamento europeo, lo decide il Parlamento europeo, quello del deputato c'è l'autodichia della Camera, quello di un consiglio regionale, ogni singolo consiglio regionale, noi li mettiamo insieme, ma comunque continuerà a non essere come per Richetti, noi poveracci ordinari, così, cioè, che non ci omologano, perché si farà semplicemente la somma, e però apprezzo almeno l'intento, che così semplifichiamo un po'. È un parallelismo quello che fa Giannino sbagliato, perché mentre correttamente, quando noi riunifichiamo contributi su gestioni previdenziali diversa, INPS, INPDAP, INPG, esatto, o altre casse, noi abbiamo pensioni che scaturiscono da logiche diverse e da parametri diversi, noi facciamo un'operazione postuma. Noi oggi abbiamo ancora le amministrazioni, cioè, come diceva Giannino, il vitalizio della Camera lo paga il bilancio della Camera, esatto, della Regione il bilancio della Regione, di Bruxelles il bilancio di Bruxelles. Noi costruiamo un fondo postumo dove il calcolo è quantitativo, cioè la somma dei contributi versati da Richetti quando ha fatto il consigliere regionale, quando ha fatto il parlamentare, quando ha fatto un altro impegno che dava diritto ad un vitalizio. Quella somma lì dà vita al montante previdenziale e su quello applichiamo la Fornero, punto. Cioè, applichiamo l'indice di rivalutazione e l'assegno, cioè rompiamo tutte le vecchie logiche. Però, come è giusto, io non lo sto obiettando, io dico che è comunque un passo avanti. resta il fatto che lei farà la somma di montanti determinati con criteri diversi. I poveracci come noi, quando avviene la ricongiunzione, avviene rivedendo anche i criteri, per questo ci chiedono i soldi. E sarebbe già un passo avanti se si riuscisse a fare quello che fa Infatti io applaudo a Richetti, No, perché Richetti sono già partite le contraeree, immagino. So che hanno già chiesto in audizione Gerardo Bianco, cioè la presidente dell'associazione ex parlamentari. La contrarietà alla mia proposta è totale, nel senso che qui tra l'altro tra lo scherzo e il faceto, no? Come si usa dire, cioè, qualcheduno mi ha detto non solo non entrerà il tuo disegno di legge, ma non entrerai neanche più tu nell'aula del Montecitorio. Cioè, siamo veramente al delirio. Ma chi le ha detto questa cosa? No, questo non ce lo dirà mai. Un collega di cui Mila non ti dirà mai il nome. Ma detto questo, il punto è che anche la difesa di questa posizione è una difesa che io comprendo molto bene, cioè stiamo parlando di persone che si vedono da 4 a 2.000, da 4.000 euro al mese passano a 2, a 1.800, a 200, quindi chi non reagisce a questo? Non tenendo conto che ciò che hanno ricevuto e che stanno ricevendo è figlio di un privilegio e di un'ingiustizia profonda. L'ingiustizia è la prima nemica della politica quando la si fa in un certo modo, ma poi si trincerano dietro all'idea dell'incostituzionalità, del diritto acquisito. Il diritto, allora, che non esiste. Io sono membro della prima commissione, ho studiato la Costituzione avendo anche contribuito a modificarla, ognuno ha la sua posizione. Ho trovato più volte il principio che tutti i cittadini sono di fronte davanti, sono uguali davanti alla legge. Non ho mai trovato la parola diritti acquisiti. No, allora, o io non so leggere la Costituzione, abbiamo un altro problema. Ma questi diritti acquisiti li abbiamo detto, insomma, che è una cosa che non c'è. Però vede Milan, sa qual è il problema? È che la giurisprudenza che purtroppo la Corte ha pronunciato in tutti questi anni molto spesso è costruita da persone rispettabilissime, ma che sono per tre quarti percettori di un assegno vitalizio secondo le logiche che voglio cambiare. Ma noi saremo sempre, Richetti, a fianco di questa battaglia e di altre, esatto. Sono tutti coloro che vorranno non fare né macelleria sociale né populismi né qualunquismi, provvedimenti di legge. Nel caso dei parlamentari la macelleria sociale, esatto. Direi che proprio manca il cunquibus. Provvedimenti che vogliono far trattare i parlamentari come degli esseri umani normali, tutto qui, nulla di più. Malgrado ciò che pensa Gerardo Bianco, e cioè che siano dei superumani, perché questo Gerardo Bianco ce l'ha spiegato. Però io ero incuriosito da Richetti, ma ci va la Leopolda, Richetti? Sì, certo che ci va la Leopolda. Come lei ben sa, ci siamo sempre più o meno sentiti prima di questo appuntamento. Infatti, Renziano. Ci vado ancora sulle mie posizioni, ci vado convinto che la grande rivoluzione che abbiamo cominciato ha degli elementi di decelerazione sul contrasto alla spesa pubblica, sul contrasto alle ingiustizie, sono le cose sulle quali io non mollerò di un punto, però devo anche dire che ci ricorda, poi dopo chiudiamo, nel 2012 io fui suo ospite in una cosa che nessuno diede molta importanza, allora presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, un grande processo di dematerializzazione. E oggi sul blog del Sole 24 Ore c'è un blog di Andrea Biondi che dice che ad oggi la regione Emilia-Romagna risparmia tutti gli anni 315.000 euro di carta non utilizzata. Sono quelle piccole cose di cui nessuno ti rende mai merito perché gli anni passano, perché non se ne riparla più, però sono le più belle soddisfazioni che uno che fa politica porta a casa, cioè dice insomma alla fine sono passato di lì, abbiamo lanciato questo piano, oggi ci sono altre persone che lo proseguono. Insomma, un successo. Ma è vero che lei vorrebbe Renzi che o fa il segretario del PD o il presidente del consiglio, perché non si capisce, cioè due poltrone sono troppe lì o no? No, mai detta questa cosa. Ho più volte evidenziato come il Renzi premier giri molto meglio del Renzi segretario. Questo mi pare un dato di fatto. Di un partito che basta. L'ha vista l'intervista del sindaco di Firenze oggi, il Corriere, che dice: viva basta destra e sinistra, Partito della Nazione? Sì, io dico di sì, non ho paura. Noi siamo centrali, non centristi. Centrali dà un po' l'idea, comunque vada, dobbiamo governare. Mi sbaglio io? No, io non sono invece di questo avviso. A me preoccupa moltissimo il Partito della Nazione perché mi dà l'idea della stagione nella quale tutte le vacche sono un po' grigie. Io credo profondamente nelle idee e quando le idee dividono le persone in un ragionamento, in un confronto dialettico, ben venga. Un paese dove più o meno la pensiamo tutti uguale, la vediamo tutti uguale, viva il buon senso, per l'amor di Dio. e ci stiamo in una chiacchierata a cenone dell'ultimo dell'anno, ma la politica è fatta di convinzioni sì. profonde, di radicamento, di profondità, di idee. E quindi in questo lei crede. Io ad esempio adesso so che Oscar Zanino potrebbe darmi una lezione su questo. Quando vedo che nel mio campo di gioco qualcuno dice eliminiamo il rischio dagli investimenti tra virgolette rischiosi, se ne fa carico lo Stato, beh, io rabbrividisco. Bravo, sono d'accordo. Ho una visione delle cose dove la libertà della persona e la sua consapevolezza fanno ancora il motore che ognuno di noi ci mette. Allora, noi intanto la ringraziamo, facciamo faccia sua se vuole la proposta dell'ascoltatore, dice se non si riescono ad abolire i vitalizi proponga di tassarli al 99%. potrebbe essere una soluzione terza. Grazie a Matteo Richetti. Andrea da Padova, che era lì da tantissimo, ce la fa a essere sintetico? La premiamo per la sua costanza. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi, vi ringrazio di avermi chiamato. Niente, io volevo parlare indietro sull'argomento banca. Sì, sì. Allora, come fa la Banca d'Italia a vigilare quando la Banca d'Italia è posseduta dalle banche commerciali? La domanda è secca. Sì, però Andrea, perdoni, me lo dicono mille almeno. Volte questa roba. Nello statuto della Banca d'Italia si dice che quelle quote di partecipazione non danno diritti in Banca d'Italia. Non ci credete, la Banca d'Italia fa quello che cacchio vuole. Non so se è chiaro. È proprio così, per statuto. Quindi Andrea, è vero che è così, ma non conta niente. Se volesse farebbe quello che vorrebbe. E tante volte a banchieri sgraditi gli ha rotto molto le scatole. E agli amici degli amici che non rompe le scatole. Allora, grazie Andrea, concludiamo con lei. Ci fermiamo qui, caro Oscar Giannino, Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, insieme a Peter Bescapè sono in redazione. Tu oh, oggi pomeriggio. Tutti continuate con Radio 24, adesso con Mix 24, oggi pomeriggio e poi anche domani mattina, naturalmente alle 10 alle 12 Conti da Belva. Quindi vedete, io dico è venerdì, ma Oscar dice, no, vabbè. Vabbè, è venerdì, il giorno prima del sabato. Non è vero, non è vero, dai. A lunedì! Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...